e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno Deborah e buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci qua. Ci siamo qua qui a Milano. Sì, sta che salendo. Noi diamo sta notizia che io e te non sappiamo neanche che cos'è, fra un po' il gol. È vero. E il fuorigioco? No, quello non introdurlo neanche lontanamente. Vabbè, comunque noi anche Deborah e io sappiamo che c'è domani la finale di Champions League tra Atletico e Real. Sì, avremo modo di parlarne. Tutta Milano intanto freme, è pronta a celebrare questa finalona con il Champions Festival, che è ricco di spettacoli, musica, divertimenti intorno al Duomo, dove peraltro fino ad oggi è anche esposta la mitica coppa dalle grandi orecchie. Un coppone. Esatto. Allora, contagiate da questa febbre sportiva, io non so, tu lo fai regolarmente, quindi per questo cosa parlo al plurale, sì. Anch'io ho pensato di investire il mio weekend nello sport. Sono reduce da due orette ieri sera, niente male, c'è un po' di acido lattico addosso. Ma senti, tu lo conosci questa cosa che si chiama boot camp? Non solo lo conosco, l'ho anche sperimentato sulla mia pelle. Com'è? Diciamo che è dura. È dura se hai un insegnante valido, è divertente, però ecco, sembra di essere ufficiale gentiluomo, è presente, solo che non c'è Richard Gere. Quindi vabbè, quindi mi metto in divisa e ce la faccio. Esatto, devi metterti la mimetica, c'è un insegnante molto brava nella mia palestra che peraltro lo fa nel parco in estate. Per questo divertente, io voglio farlo, vorrei proporlo anche ai nostri ascoltatori, soprattutto chiedere se qualcuno di loro l'ha già provato, così mi dà i primi rudimenti, scriveteci, andate sulla nostra pagina, insomma... Attivatevi per tenerci anche in forma, perché esatto, anche voi dovete occuparci di noi. Dateci qualche suggerimento, esatto, che non so, ci dobbiamo cimentare con la scherma, con il lancio del giavellotto, che cosa dobbiamo fare io e Nicoletta? Qualche ricetta, qualche super alimento, insomma, siamo dei casi difficili, un po' difficili, quindi occupatevi di noi. Intanto partiamo con la nostra rassegna stampa. Allora, crisi economica e salute, questo è il primo titolo della rassegna stampa di oggi di Cuore. Sapevamo che la crisi economica ha influito negativamente sia sul nostro portafoglio che sulla nostra salute, tanto che ne abbiamo parlato spesso a Cuore Denari, ma forse nessuno prima d'ora era arrivato a immaginare che gli effetti della crisi si sarebbero fatti sentire anche dal punto di vista sul tasso di mortalità dei tumori. Come invece ha rivelato una recente ricerca scientifica pubblicata su Lancet, il team di ricercatori americani e inglesi ha utilizzato i dati della Banca Mondiale e anche quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per esaminare il legame tra disoccupazione, spesa sanitaria e mortalità per cancro in oltre 70 paesi e su un arco temporale piuttosto vasto, dal 1990 al 2010. Bene, da questo studio è emerso che quando sale la disoccupazione c'è un aumento dei decessi in tutti i tipi di cancro. Per fortuna però c'è anche una buona notizia: questo tipo di associazioni si riduce o scompare del tutto nei paesi con un'assistenza sanitaria universale. Insomma, una conclusione che rafforza ancora di più l'importanza di avere accesso alle cure. Lo sottolineiamo, e proprio di cure, di come investire nella prevenzione, abbiamo parlato anche con un approfondimento con il nostro esperto dell'Istituto Nazionale dei tumori, di cui potete trovare l'intervista sul nostro sito. Parole crociate e sudoku non solo allenano il cervello, ma aiuterebbero a prevenire e ritardare gli effetti di malattie come l'Alzheimer. Questo è il risultato di uno studio effettuato dai ricercatori dell'IRCA, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per Anziani, nell'ambito di un progetto che si chiama My Mind. È un lavoro che ha coinvolto per un periodo di 3 anni più di 300 persone over 65. Ma non è solo con l'allenamento mentale che si previene l'Alzheimer, ma è dimostrato che anche l'allenamento fisico vero e proprio può essere considerato un fattore protettivo. È stato infatti dimostrato che l'esercizio fisico, basta poco, è moderato, svolto almeno 3 volte alla settimana, consente di ritardare fino a 5 anni l'esordio dei disturbi di memoria della malattia di Alzheimer, malattia di cui uno studio dell'Harvard Medical School pubblicato sulla rivista Science Translation Foundation torna a ipotizzare l'origine infettiva. Allora, secondo il gruppo di ricerca, l'Alzheimer potrebbe essere scatenato dalla risposta del sistema immunitario che, per fermare virus, funghi e batteri, si attrezza costruendo una ragnatela di proteine, le beta-amiloidi, che avrebbero pertanto la funzione di proteggere il cervello dalle infezioni. Ma la ragnatela, terminata il suo lavoro, resta e diventa la caratteristica della malattia. Un approfondimento lo trovate sulle nostre pagine a cura del professor Alberto Albanese, responsabile della neurologia di Humanitas. E concludo, Debora, con 30 grammi al giorno di formaggio grana padano tolgono l'ipertensione di torno. Si potrebbe riassumere così lo studio, uno studio italiano, è condotto dall'ospedale Guglielmo da Saliceto, dall'Università Cattolica di Piacenza, presentato al congresso della Società Americana di Ipertensione a New York. Da tempo, d'altronde, numerosi studi clinici hanno dimostrato che la fermentazione di latte vaccino indotta da un batterio particolare, si chiama Lactobacillus helveticus, produce delle sostanze, in realtà sono peptidi, che agiscono come ACE inibitori naturali, insomma si comportano più o meno come gli omonimi farmaci che vengono utilizzati nel trattamento dell'ipertensione. E a seconda dei ceppi di helveticus utilizzati, ce ne sono tanti, 59 tipi, questa attività è più o maggiore o minore. Allora, per saperne di più, sul nostro sito trovate l'intervista al dottor Giuseppe Crippa, che ha condotto lo studio ed è direttore dell'unità operativa di ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari all'azienda USL di Piacenza. Eccoti qua. Allora andiamo dei denari. Il cuore siamo denari, a posto. Apri il portafoglio che adesso te lo sistemo io. Abbiamo intanto in fila qualche pezzettone. Oggi purtroppo non posso infilare grandi cose, perché anzi devo estrarre, visto che la borsa è negativa. Anche questa ultima giornata della settimana, a quanto pare, è intenzionata a registrare un saldo negativo per i listini azionari. Milano è la peggior piazza d'Europa, segna meno 0,4% sul FTSE MIB, Parigi meno 0,25%, Francoforte meno 0,20% e sulla parità Londra. I peggiori titoli di Milano stamattina: CNH Industrial, Pop Emilia Romagna, che poco fa ha dovuto anch'essa smentire di avere operazioni in corso su Veneto Banca. Questi due titoli perdono l'1,8%. Saipem meno 1,33% lascia sul campo anche oggi di nuovo un punto percentuale Unicredit. Dall'altra parte invece ritroviamo in recupero dopo il forte ribasso di ieri il Banco Popolare, oggi promossa anche da una grande casa d'affari, più 2,48%, Moncler più 1,56%, Atlantia più 0,9%. Peraltro stamattina è in programma anche un'asta bot a 6 mesi, vedremo più tardi come andrà, se ancora una volta registreremo tassi di interesse negativi su questa scadenza. Peraltro è finito il G7 in Giappone, con tutta una serie di indicazioni che non hanno convinto più di tanto il mercato sulla necessità appunto di sostenere la ripresa economica, e oggi arrivano dati economici importanti dagli Stati Uniti, ma soprattutto un nuovo intervento della Presidente della Banca Centrale Americana, Janet Yellen. Allora, ieri è arrivato a larga maggioranza il via libera dal Senato al DDL sull'assistenza ai disabili gravi, il cosiddetto provvedimento dopo di noi. Nicoletta, te lo ricorderai perché ne abbiamo parlato, lo fa Gianluca Nicoletti, ma anche noi ne abbiamo parlato spesso. Allora, il testo tornerà alla Camera perché sono state apportate in Commissione Lavoro al Senato alcune modifiche, confermate poi dall'Aula. Il provvedimento contiene misure di assistenza, cura e protezione delle persone appunto con disabilità grave, definisce anche le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale. Ci sono delle dotazioni economiche, però, perché viene istituito un fondo per questa assistenza, la dotazione di 90 milioni di euro per quest'anno, 38 per l'anno prossimo, 56 per il 2018. Si prevede anche, fra le altre cose, la detraibilità delle spese per polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, e fra le modifiche approvate da Palazzo Madama è stata introdotta anche la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali accanto all'istituzione di trust. Da mercoledì è legge anche la riforma del terzo settore, un provvedimento che riforma la disciplina sul volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo no profit, le fondazioni, le imprese sociali, ed è una legge, una delega che appunto impegna il governo per i prossimi mesi a compiere una serie di interventi in questo ambito. Noi volevo segnalarvi che proprio lunedì abbiamo deciso di dare uno spazio all'ABC del 5 per 1000, visto che siamo in piena stagione di dichiarazione dei redditi e molti contribuenti stanno decidendo di devolvere una quota delle tasse che generalmente devolvono appunto non tanto volontariamente al fisco italiano, invece decidono con il 5 per 1000 appunto di versarlo ad un'organizzazione del terzo settore, per cui riepiloghiamo lunedì prossimo tutta la situazione. Ultima notizia, visto che abbiamo aperto la settimana, Nicoletta, te lo ricorderai, anche se mi hai lasciato sola lunedì parlando di gioco d'azzardo e dell'aiuto che può arrivare anche dal mondo bancario per contrastare la ludopatia, dai giornali stamattina leggiamo una novità interessante che arriva dalla città di Bergamo, dove entra in vigore un nuovo provvedimento che limita il gioco d'azzardo in alcune fasce orarie. Sarà bandito al mattino dalle 7.30 alle 9.30, naturalmente negli esercizi pubblici, durante la pausa pranzo, quindi dalle 12 alle 14 e all'ora di cena fra le 19 e le 21. La giunta comunale annuncia proprio oggi l'approvazione di questo regolamento restrittivo, questo nuovo regolamento antiludopatia che il comune di Bergamo appunto si propone di naturalmente approvare per, dice, salvaguardare la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza e anche il decoro urbano. Allora, domani sera lo stadio San Siro di Milano ospiterà la finale di Champions League fra Real Madrid e Atletico Madrid. Peraltro è come se al Bernabéu, appunto in Spagna, ci fosse la finalissima fra Milan e Inter. Magari Carlo ne sa un po' di più. Noi l'abbiamo tradotta così. Chissà se poi abbiamo se detto volete le cose corrette, ma vedrai quanti tifosi ci bastoneranno per le inesattezze. Ma non importa, Roma-Lazio. Cioè, però siamo interessati. Toro-Juve. Esatto, un derby che si svolge in un'altra capitale europea. Un derby appunto tutto spagnolo che sta attirando da qualche giorno nel capoluogo lombardo migliaia di tifosi da Madrid, dalla Spagna tutta. Allora, adesso vi diciamo perché noi abbiamo deciso di occuparcene sia dal punto di vista del cuore e dei denari di questo argomento, non perché siamo tifosi di queste squadre di calcio, anche se ovviamente quando ci sono grandi campioni siamo sempre attirate, ma perché? Che cosa è successo? Che tutti questi tifosi che sono arrivati dalla Spagna hanno subito notato un comportamento non tanto deontologicamente corretto da parte di albergatori a Milano, commercianti, e quindi cosa hanno fatto? Hanno denunciato presso le associazioni dei consumatori locali quello che una stava avvenendo in Italia, direi. Esatto. E allora dal passaparola ovviamente altro consumo è stata direttamente interessata in Italia e subito hanno, come dire, stilato la lista dei cattivi comportamenti degli esercizi pubblici milanesi. Liliana Cantone, responsabile delle relazioni con i media di Altro Consumo, buongiorno, benvenuta Liliana. Buongiorno a tutti voi, grazie per ospitarci ancora una volta. Allora, che cosa è successo? Esatto, cosa vi hanno detto i vostri paritetici spagnoli? I nostri cugini spagnoli ci hanno segnalato ciò che diversi consumatori, tifosi spagnoli che avevano prenotato molte settimane fa, probabilmente anche in una coincidenza, non avevano previsto di essere qui per la finale, ma comunque avevano prenotato delle camere presso degli hotel milanesi ad un prezzo ovviamente molto vantaggioso, questo attraverso le agenzie online, per esempio il sistema di Booking. Sapete che ci sono delle offerte interessantissime, sì. Tutti noi ne abbiamo approfittato. Certo. Infatti, ecco, cosa è successo? Appena è stata, diciamo, indicata la finale Champions, questi consumatori si sono visti arrivare la disdetta della prenotazione con un pretesto, che è un pretesto lecito, nel senso che la carta di credito aveva una scadenza ravvicinata o era in un periodo appunto in cui poi fruita... Tutti la carta di credito, dai, in scadenza. Sì, fruita la prenotazione, la carta non sarebbe stata valida. Di solito cosa succede? L'hotel chiama il consumatore e dice: la carta di credito è in scadenza, vogliamo riproteggere su un'altra, come facciamo? Ecco, in questo caso non c'è stata nessuna telefonata ai consumatori, ma c'è stata una disdetta diretta. E però, che cosa abbiamo scoperto? Le camere, c'erano altre camere diciamo disponibili, e guarda caso i prezzi erano lievitati. Quanto sono lievitati mediamente, Liliana? Non abbiamo fatto una valutazione perché i comportamenti erano diversi e fare una media ovviamente per pochi episodi diciamo non è possibile, però è significativo in quanto veramente aneddoti molto significativi di come la trasparenza di molti albergatori in questi contesti vada in trasferta. Sì, noi l'avevamo raccontato anche lo scorso anno, per esempio in concomitanza con Expo 2015, sono anche, per carità, comportamenti comprensibili, è chiaro che ci se ne deve un pochino anche, non dico approfittare ma non esagerare, però addirittura che tu dici: dai, la carta di credito ti sta scadendo, guarda che ti scade fra 2 anni la carta di credito, devo cancellarti. Fanno questo servizio, la provocazione. Poi che tutti sti spagnoli con la carta di credito scaduta stiano arrivando. Liliana, ancora un attimo, andiamo al traffico e poi ritorniamo con te, ma andremo anche ad affrontare, Nicoletta, un altro aspetto di questi mondiali. Certo, perché il tifo è cuore. Ecco, e non solo denari, come in questo caso. A tra poco. Cuore e denari. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la quello partita. Che qua non è più domenica, ormai si gioca praticamente sette giorni su sette. Qua tutte queste donne impegnate con tifosi e tifosissimi se ne stanno a casa da sole, poi arriva l'idraulico. Guarda cosa pensa, che deve aver guardato la partita, perché c'è una ricerca molto interessante sugli effetti che produce la vista della partita, Tipo? Anche per gli uomini, ecco. Ve lo dico dopo, ecco. Sempre, insomma, direi che non è poi tutto male. Ecco, un effetto chiaro è economico ed è quello che stanno producendo a dismisura gli albergatori su Milano. A quanto pare adesso noi non abbiamo la testimonianza diretta, ma certamente non possiamo non credere a quello che dicono i tifosi spagnoli, che in tanti sono venuti appunto a vedere la partita, la finalona di domani sera, e che lamentano il fatto che rispetto a qualche prenotazione fatta qualche settimana fa, adesso sarebbero state cambiate le carte in tavola da parte degli albergatori. Ma con delle scuse te, un po' strane, sì. Debora, possibile che non ci sia un albergatore milanese all'ascolto di Cuore Denari? Ecco, ci chiami, perché così sentiamo anche l'altra parte. Se è vero, parte. Non è vero. Che se ne dice siete... Liliana Cantone? Magari c'è un ascoltatore che sta sentendo Cuore Denari. Io sono ci corretta, chiama. Non fate sempre della solita tutta fatevi avanti, fatevi anche avanti. Perché i nostri consulenti al servizio 80 avvocati, che è appunto il servizio di consulenza leggevo, e infatti, assistenza legale di altro consumo, non hanno effettivamente ricevuto chiamate dirette qui dall'Italia, ma noi riferiamo le storie raccontate dai nostri cugini spagnoli. Dall'associazione dei consumatori OCU. Possiamo? Possiamo dare una buona notizia però per i turisti cosiddetti digitali, perché da questo dobbiamo imparare, da questa situazione. Oggi che cosa succede? Non andiamo più in agenzia e compriamo un pacchetto, come dire, organizzato, no? Di viaggio, ma magari andiamo online, prendiamo il volo, poi nel sito che ci propone il trasporto aereo, la compagnia stessa ci propone un hotel, un servizio di autonoleggio, quindi la situazione è molto più ibrida in evoluzione rispetto a come era prima. Ecco, a partire entro il 2018 almeno avremo una nuova direttiva europea che tutelerà i turisti anche quando si scelgono i servizi in maniera così frammentata o collegati attraverso un click. Quindi una nuova normativa arriverà tra qualche tempo, diciamo non subito, però questo è veramente ci descrive un quadro molto ottimistico, perché ovviamente se le regole sono più chiare anche gli operatori avranno meno spazi per comportarsi in maniera poco però corretta. Insomma, se anche gli operatori invece che aspettare le direttive europee cominciassero a comportarsi correttamente, anche perché adesso, a parte quello che succede a Milano, a Rimini settimana scorsa, Nicoletta, un nostro amico che ha partecipato al trail all'IT Forum mi ha raccontato che gli è successa la stessa identica cosa con un albergatore appunto a Rimini. Ha chiesto di rimanere un giorno in più dopo la manifestazione, hanno pattuito un prezzo al telefono, nessuno ha scritto nulla, questo prezzo è non raddoppiato ma aumentato di circa 60 euro. Verba per volante. Una notte, esatto, per cui mettiamo tutto per iscritto. Detto questo, intanto grazie a Liliana Cantone per essere stata con noi di Altro Consumo. Grazie, buona giornata. Grazie, presto, buona giornata. Per chi ti farà Liliana? Per il Cagliari, quindi siamo messe bene. Io granata, lei del Cagliari. Vabbè. Ho risposto col cuore. Brava, ciao Liliana, brava. Mi ha dato l'assist. L'assist. Ormai so dirlo. E sai, si usa anche in termini calcistici. Certo. Perché il tifo è una buona palestra delle emozioni, il cuore vola in alto. Io non voglio dirvi che cosa dicono i cardiologi, perché i cardiologi avvertono che il tifo può mettere, se soprattutto questa passione troppo accesa, è un po' uno stress per il cuore. Invece voglio raccontarvi tutte le ricerche, perché del tifo si sono occupati non solo i cardiologi, ma si sono occupati anche i neurologi. Bene, sembrerebbe che fare il tifo attivi più aree del cervello contemporaneamente. Bene. E questa è una sorta di ginnastichina, male non fa, ma anche parlare di calcio fa bene. E degli studi all'Università della California sono arrivati alla conclusione che nel cervello degli sportivi e dei fan, quando parlano della loro passione, si accendono con particolare intensità le aree cerebrali specifiche del linguaggio, quindi anche questo aiuta. Ma quello di cui accennavo prima è che, secondo l'Università del Utah, il tifoso ha un aumento di testosterone se la propria squadra del cuore vince, per cui l'importante è tifare per uno e sperare che vinca. Sì. Ma anche dell'ormone del desiderio sessuale e della vitalità. Quindi per qualcuno la serata di sabato sera è assicurata. C'è poi il fatto che tutte le volte che c'è un grande evento, poi sì, c'è lo spirito di emulazione. E quindi, naturalmente, molti si improvviseranno campioni la domenica. Senza dare testate a qualcun altro, come brava, invece è successo in qualche campionato del mondo di qualche anno fa. Una partitina, ecco, magari con gli amici, sì, scapoli ammogliati. Ecco qua, attenzione, perché vi devo dire un dato dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui sono 300.000 gli italiani che finiscono al pronto soccorso per incidenti da sport. E la metà di questi ci va per colpa del pallone. E allora noi abbiamo un amico in linea con noi, il dottor Franco Confalonieri, che ci racconta, ci dà tre indicazioni, tre, per giocare a calcio senza rimetterci la gamba. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati tutti. Innanzitutto, la prima, una conferma di quanto si diceva a proposito del testosterone. Quindi qui parlo dei tifosi. È ormai acclarato da diversi studi che sta nel nostro DNA il fatto di competere, di combattere e quindi di godere della vittoria e un po' meno della sconfitta. Non lo facciamo più direttamente noi combattendo, ma lo facciamo per interposta persona attraverso il tifo. Quindi è assolutamente dimostrato che tifare per una squadra che vince risponde a un bisogno primario e quindi aumenta il livello di determinati ormoni. Quindi questo, quindi, mi sento davvero di confermarlo. 1-0, ecco, per i tifosi, insomma. Sì, esatto. Rispetto al fatto che è chiaro, viviamo a Milano l'evento più importante in assoluto, perché ormai il calcio per club ha superato anche il calcio per nazionale. Sì, mi dia i consigli, dottor Confalonieri, perché poi ci mozzano la testa perché c'è il GR. Andiamo ai consigli. Bene, sarò molto sintetico. Primo consiglio: prendete, questo è un po' controcorrente, prendete spunto dalle problematiche che avrete giocando la vostra prima partita. Avete un dolorino, fate molta fatica, vi rendete conto di non essere più in forma, è scattato un segnale, è l'occasione buona per fare un check-up e vedere cosa non funziona a livello del ginocchio, della schiena, piuttosto che del sovrappeso. Quindi sfruttiamolo positivamente. Secondo consiglio: se abbiamo superato una certa età, magari partiamo giocando in difesa, giocando a centrocampo, dicendo: io faccio il regista, bravo, mi muovo poco, lancio il pallone. Rotto il fiato, come si dice in gergo, quindi superati i primi 12-15 minuti, quando il nostro organismo si è attivato, cominciamo andate a di correre. Corsa. Il segnale orario vi è offerto da Dinamicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Io vengo a prenderti e poi ti porto al mare. Restiamo. No, Deborah, al mare non ti posso portare. Ma vuoi portare a boot camp? Vedi un po' tu che no, weekend. Però si può fare sui parchi. Guarda, che si nostra può fare anche domenica con la pioggia, perché anzi è molto più intenso l'allenamento, è proprio da soldato. Quindi? Quindi scolpisce. Andiamo, scolpisce, oh, vai, fantastico, di mimetica. Comunque, dopo, quando siamo belle, no, tutte toniche, palestrate, toniche, ti porterò al mare, così ho tempo di organizzarmi. Non ho ancora fatto il cambio degli armadi, non farmi vedere quel muscolino lì che stai svenendo. Comunque, invece, adesso io ho deciso di portarti in provincia di Verona. Andiamo. In una casetta ai bordi di un bosco dove vivono tre bambine insieme alla loro mamma e al loro papà. Tu che sei una super zia, ti troveresti benissimo, già ti vedo, con le prese con giochi, treccine, biscotti, a Altalena, rispondere a tutte quelle domande. Un mio grande classico. E poi a farti raccontare e a rispondere a tutte quelle domande che solo i bambini sanno fare, a cui solo noi grandi facciamo fatica a rispondere. Ci vieni? Andiamo, molto volentieri. Allora bene, deciso, noi arriviamo e lo comunichiamo in diretta a Matteo Bussola, il papà di questa bella famiglia che lui ha imparato a conoscere ad amare attraverso i post che Matteo ha iniziato a scrivere per raccontare storie di ordinaria e semplice quotidianità che è poi straordinaria, no? A saperla vivere e raccontare. Buongiorno e benvenuto Matteo. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. L'uomo, anzi il papà, da migliaia di like. Oddio, detta così. È così che ti scrivono. Ti possiamo dare del tu, dato che verremo a vivere da te un weekend? Possiamo farci subito? Va bene. Allora, intanto voglio raccontare ai nostri amici dove andremo a finire, perché vorrei andare per ordine. Tu sei un fumettista, anche la tua compagna Paola. Fate due professioni atipiche che svolgete entrambe in casa, quindi passate molto tempo insieme alle vostre tre bambine, e leggendo le pagine del tuo diario su Facebook, che presto diventerà un libro, ne parliamo tra poco, si ha proprio l'impressione che si respiri una bella atmosfera lì nella casa del bosco. Si ride, si chiacchiera, ci si coccola, si discute, ne succedono un po' di tutti i colori, come capita d'altronde in tutte le famiglie. Però la cosa bella è che tu riesci a catturare istanti di quotidianità e a trasformarle in storie. Tu sei un fumettista, insomma, schizzi anche con le parole, no? Sono degli schizzi ad hoc. Sì, questa è una cosa che mi hanno già detto spesse volte nei commenti, il fatto che io disegni anche con le parole, ed è una cosa che devo dire sento mi calza abbastanza, perché in effetti mi sono reso conto col tempo che quel che faccio è proprio quella cosa lì, cioè io lavoro sulle immagini in realtà. E presumo che questa cosa mi derivi proprio dal mio essere fumettista, perché in effetti cioè, quello che faccio da anni ormai è precisamente questa cosa qua, cioè è come se scattassi delle brevi istantanee della mia vita quotidiana, ecco. E diciamo che è quello che la maggior parte delle persone magari lo fa con la macchinetta digitale o con lo smartphone, io lo faccio, visto che non ho uno smartphone, lo faccio così. E hai senti Matteo, ti richiamano dalla regia perché la linea mi stanno dicendo che è un po' disturbatina. Non è perfetta. Però metti come giù vorremmo. E rispondici subito, perché dobbiamo raccontare, sentire anche, entriamo un po' in casa tua. Allora, intanto dalla regia che richiamano Matteo Bussola, noi intanto salutiamo. Intanto me lo sono andata a prendere su Google, naturalmente l'ho cercato. Matteo è anche ovviamente un bel ragazzo, naturalmente vale la pena anche dirlo. Ha tre bambine. Quindi, esatto, infatti. Ed è un papà un po', no, che sa raccontare una nuova paternità. Però è un papà normale. Matteo, sei tornato? Sì, sono tornato. Ottimo, ecco, molto e tu, meglio. Diciamo un po' la verità, tu sei diventato un fenomeno in pochi mesi. Il grande salto proprio in termini numerici è avvenuto grazie all'ormai famigerata lettera aperta Fedez, che tu hai pubblicato sulla tua bacheca per chiedere a Fedez un suo autografo per la tua figlia più grande. Sì. Ce lo racconti? Sì, allora in verità la cosa non è partita da Fedez, nel senso che è partita da molto prima, e cioè diciamo che il numero di persone che... No, direi il salto, quello che ti ha fatto proprio, sì, no, sì, fare la svolta. Il grande così. Salto si è verificato con la lettera di Fedez in questo senso, nel senso che io avevo già la sensazione che le persone che mi seguivano fossero più di quelle che io sospettavo. Diciamo che fino alla bacheca alla lettera di Fedez la mia bacheca era una bacheca privata, sì, quindi poteva essere letta e commentata solamente dagli amici, e solo loro potevano esprimere anche il loro gradimento relativo ai pezzi. Il giorno in cui ho scritto la lettera a Fedez, che non era null'altro che una richiesta di autografo per mia figlia Virginia, che era settimane che mi assillava con questa cosa, e papà Io non sapevo come fare, e mi sono inventato questa cosa che si faceva sui giornali di una volta, cioè di scrivere a Fedez una lettera aperta, visto che non si poteva scrivere a lui, certo. E l'ho pubblicata sulla mia bacheca proponendola come un giocoso scambio, cioè visto che io sono un disegnatore, gli ho detto io se vuoi ti faccio un disegno del tuo personaggio preferito e tu in cambio mi spedisci l'autografo per mia figlia. E in quell'occasione ho reso per la prima volta la mia bacheca pubblica, per dare naturalmente la massima visibilità a questo appello. Ce l'ho. E lì mi sono accorto che è successo qualcosa, nel senso che per la prima volta, diciamo così, il contatore dei like ha cominciato. Ha avuto un effetto moltiplicatore, tanto che notte in bianco e bacio a colazione, il titolo del libro, che uscirà il 24 maggio, ormai si può dire, raccoglie tutti i post che tu hai pubblicato in questi anni, è una sorta di diario 2.0, che in cui tu parli di tutto, di figlie, di cani, ne hai due, prima erano quattro, di tua moglie, degli amici, ma anche dei sonnellini, delle chiacchierate, delle domande, delle festine, dei viaggi in macchina, dei pediatri, insomma un libro che racconta la magia quotidiana dell'essere padre, che poi un po' come essere un elefante, sentiamo. Il prima e il dopo non sono uguali per tutti. Quando diventi padre, il tuo dopo è che pesi 3,5 kg in più, all'incirca. Comprendi già dal primo secondo che quello sarà un dopo definitivo, l'unica cosa della tua vita dalla quale non potrai mai più tornare indietro. Io ora di chili in più ne ho circa una sessantina. Li porto a scuola ogni giorno e tutto il resto. Mi muovo come un elefante e non più come una gazzella. Ma il punto resta che la gazzella ogni mattina si alza perché sa che è il leone, e il leone ogni mattina si alza perché sa che è la gazzella. L'elefante invece se ne frega, non fugge e non rincorre. Questo è un breve estratto che abbiamo, volevamo riproporvi per dare modo a Matteo anche di raccontarci, no, questa metafora dell'elefante. La paternità sicuramente cambia la vita alle mamme, ai papà, insomma la vita ha tutto un altro peso. Secondo te, Matteo, tu che i papà li incontri e li conosci, i papà hanno questa consapevolezza, si sentono elefanti? E che cosa nel caso li aiuta o impedisce loro di, no, avere questa consapevolezza? Questa è una bella domanda. Io penso che i papà si sentano papà. E vogliono sentirsi papà, e credo che vogliano con forza accedere nuovamente, o forse per la prima volta, a quella specie di zona sensibile che ci è stata negata, o che noi stessi ci siamo negati, no, per anni, un po' per un discorso di educazione, per un discorso culturale, insomma. E credo che mai come oggi ci stiamo rendendo conto per la prima volta che forse ci siamo persi qualcosa. E che all'interno di una famiglia poi alla fine non ci sono cose da papà o cose da mamma, perché alla fine papà e mamma sono solo ruoli, e quindi, come dire, in un certo senso io credo che non sia giusto che ci siano alcune cose che sono esclusivo appannaggio delle mamme e altre solo dei papà, perché ognuno di noi dentro di sé ha poi una parte maschile e una femminile, no? E penso che sia giusto che ne abbiamo libero accesso a tutti, cioè io quando coccolo mia figlia, o quando l'accompagno a scuola o al parco giochi, o quando cucino, per esempio, visto che in casa nostra cucino solo io, o quando rispondo alle domande scomode che ti fanno tutti i giorni, non è che mi sento un mammo, come si dice con questa orribile espressione, mi sento proprio un papà a pieno titolo. E così come la mia compagna si sente ugualmente mamma quando con il cacciavite smonta una presa elettrica, o quando col trapano monta una mensola, ecco. Credo che sia una divisione da inizio secolo, questa qua, sarebbe anche ora di liberarsene. E l'accudimento non fa differenze di genere, non ci sono cose da donna o da uomo, no, da papà o da mamma, e tu comunque racconti una dimensione, lasciami usare questa espressione, materna e sensibile della paternità, e questo credo che aiuti tanti uomini e anche tante donne a guardare un po' con occhi diversi il loro compagno. Quel che le madri non sospettano è che quando i padri si alzano alle 3 di notte per coccolare i figli, non è per fare i gentili, né per lasciarle dormire. È solo per recuperare il senso, respirare, stringere, stare a godersi quel che c'è, sentirsi un po' più vicini a una cosa che in fondo non hanno mai avuto e mai avranno. Perché quel che le donne non dicono non è niente in confronto a quel che gli uomini non sanno. Allora, Debora è stregata, sì, rapita. Sì, esatto, silenziata, ecco, vero? Da quest'ultima affermazione. Quello che le donne non dicono non è niente rispetto a quello che gli uomini non sanno. Cioè, racconta tutto, e noi vogliamo commentarla insieme anche ad un altro papà, che è Alberto Pellai, che è in linea con noi e che al tema della paternità ha concentrato, no, ha dedicato molti anni e molti libri. Uno, Dentro la pancia del papà, è un libro che a 10 anni dalla sua pubblicazione continua a essere in vetta alle classifiche, ristampato. Alberto. Ma buongiorno. Buongiorno, ecco un papà che ti piace. Ecco un papà che ti piace molto, così vi conoscete. Devo dire bravo Matteo, ha proprio scritto delle parole bellissime che entrano nel cuore, credo di tutti, sia delle mamme che dei papà, perché sta raccontando proprio la trasformazione degli uomini, che in realtà sono sempre stati i padri, hanno sempre fatto i papà, ma adesso davvero si sentono padri e quindi si appropriano della dimensione emozionale, emotiva, più profonda, interiore del loro essere papà, che è proprio poi quella cosa per cui in fondo, quando facciamo un figlio, decidiamo di stare al mondo, di stargli accanto, di volergli bene, di essere amati da lui. Voglio leggervi il messaggio che Gabriele ci ha mandato su WhatsApp. A me la vita è cambiata in due modi. Quando ho conosciuto mia moglie, che aveva già due bambini e di cui, vista l'assenza del padre, sono diventato figura di riferimento, i chili in più sono diventati subito tanti. Poi 3 anni fa è nato il nostro bambino e lì è ricambiato tutto di nuovo. Questo ci racconta Gabriele, ma questo potete fare anche voi raccontandoci, mettendo i vostri post anche sul pagina di Cuore Denari. Chiederemo naturalmente anche a Matteo Bussola, ad Alberto Pellai, di magari entrare in questa comunità di papà che si scoprono diversi e nuovi. Matteo, io volevo capire se questo modo tuo di intendere la paternità l'hai capito diventando papà, oppure anche quando eri ragazzo e sognavi la tua vita da grande, magari come papà di un bambino, avevi già qualche idea di quanto potesse essere importante il ruolo di papà e di un modo nuovo, tra virgolette, di fare il papà? No, io l'ho scoperto solo diventando padre. Prima non avevo la più pallida idea. E per questo dicevo nel pezzo che avete detto prima, che essere padre è stato il mio dopo, in qualche modo la mia seconda vita, perché diventare padre per me, mi sono reso conto nel tempo, è stato proprio come aver indossato un paio di occhiali. Ecco. Potrei dire, cioè, sono le lenti da miope con cui osservo il mondo da angolazioni che prima non consideravo. E questa cosa qua è una cosa che ha a che fare proprio con l'attenzione, col prendersi cura. Una cosa che ha a che fare con lo sguardo, appunto, no? E quindi torniamo alle immagini. È vero, torniamo alle immagini, Alberto. Un nuovo paio d'occhiali. Alberto? Un figlio è l'occasione di trasformazione più importante che ciascuno di noi, sia uomini che donne, hanno nella vita. Cioè, dopo aver scelto una compagna o un compagno di vita, che è una dimensione che spesso proviamo a coltivare nel per sempre, la cosa che comunque sarà per sempre con noi e di noi sono i nostri figli, da loro non ci separeremo mai, ed effettivamente loro ci obbligano a uscire un po' dal ruolo sociale, dall'identità che soprattutto gli uomini si sono costruiti fino al momento in cui diventano padri. È incredibile pensare come spesso noi uomini, quando ci presentiamo al mondo, ci raccontiamo per il lavoro che facciamo. E quindi noi siamo un po' il nostro mestiere. Capita anche alle donne, comunque. Ma credo, infatti, se posso aggiungere una cosa, credo che la differenza sia proprio questa, no? Ragionando sul concetto di lavoro, cioè il lavoro di padre è l'unico lavoro nella vita di un uomo del quale non ti potrai mai dimettere, in qualche modo, no? Cioè, puoi smettere di fare un lavoro, da una compagna magari può accadere che ti separi nel corso della vita, possono succedere tante cose, ma una volta che sei diventato padre è una linea di demarcazione definitiva, perché padre lo resterai per sempre, anche tuo malgrado, mi verrebbe da dire, ma ormai lo sei, e quella lì è una differenza definitiva. Allora, abbiamo detto che sei diventato in breve tempo un fenomeno, il papà da milioni di like. Sicuramente conta anche il tuo modo di raccontare le cose. C'è ad esempio un post, quello sull'elastico, che ha raggiunto 100.000 mi piace, Deborah, figurati, e circa 50.000 condivisioni, risultati che tra l'altro ottengono solo le grandi star della TV, della musica e del cinema. Secondo te, che cosa l'ha reso speciale? Tra l'altro possiamo dire ai nostri ascoltatori che abbiamo messo il link, potete andarla a leggere. Io vorrei chiedere a Matteo che cosa secondo te ha determinato questo grande successo, e poi vorrei ascoltare un altro post, un altro frammento in cui racconta il papà sotto il fuoco incrociato dello sguardo delle mamme a una festa di compleanno, perché di tradizione erano le mamme che accompagnavano le bambine alle feste, ma quando entra un papà. Matteo, che cosa hai di speciale tu, secondo te? Ma io non credo di avere niente di speciale, cioè credo solo, non so, io mi sono fatto l'idea che forse la cosa che che colpisce un po' le persone in cui si riconoscono è che io lavoro sulla corta distanza. Cioè io in realtà non è che racconto di piccole cose, come ha detto qualcuno, anzi secondo me racconto di cose grandissime, però racconto di cose vicine. E credo che il punto sia proprio che, dato che viviamo in un'epoca in cui tutti siamo governati, no, da forze sovranazionali quasi, ci sentiamo continuamente in balia degli eventi, di fronte a eventi più grandi di noi, come quasi se la nostra vita non ci appartenesse più, no? Io credo che in un contesto del genere forse le persone stiano cominciando a capire che l'unica maniera di operare nel mondo e di lavorare anche forse un po' per cambiarlo sia di lavorare con quel che c'è e quindi con quello che hanno vicino. E quindi, che ne so, per cambiare il mondo è più utile sorridere al tuo vicino, o ricambiare l'amore delle persone che hai attorno, piantare un orto, cose così, insomma. Ecco, io in fondo parlo di questo. E credo, anzi ho scoperto che poi il potere della scrittura, ma anche dei fumetti, è proprio quella cosa lì, nel senso che la scrittura e i fumetti servono perché aiutano chi legge e anche chi scrive a cambiare il proprio punto di vista sul mondo. E quando hai cambiato il tuo punto di vista sul mondo, anche se non lo sai, cioè anche di poco, hai già cambiato certo. Il mondo. Allora, noi andiamo a sentire un altro frammento di un post in cui Matteo, e chissà quanti dei nostri ascoltatori si saranno trovati in una situazione simile, quindi anche qui l'invito è a raccontarvi, va ad accompagnare una delle sue bambine ad una festa. Le mamme erano tutte stipate nell'angolo in fondo, accanto al tavolino con le patatine e le Dixie, come tanti conigli in batteria. Quando siamo entrati, essendo io l'unico papà presente, mi hanno squadrato come se un uomo ubriaco e nudo avesse fatto irruzione nella loro cartolina natalizia. È durata solo qualche secondo, perché io alle mamme faccio simpatia. Dopo circa 3 minuti, la Maria Carla mi stava parlando dei suoi problemi di cervicale. La mamma di Mattia mi diceva che somiglio a Coso, quello là. Insomma, hai capito, dai. E la madre della festeggiata mi ha portato un panino col salame. Allora, alla Maria Carla puoi dire di chiamarci, perché noi sulla cervicale siamo assolutamente preparate, vero? Sì, esatto. Ecco, sul panino col salame poi possiamo discutere. Invece volevo parlare con te, Matteo, e anche coinvolgere Alberto per capire quali sono gli altri momenti di apparente difficoltà che un padre incontra nel suo mestiere di padre, oltre alle mamme che all'inizio ti guardano un po' come se tu fossi un punto nero nel viso della Gioconda. Poi rispondo io? Sì, e poi sì, sentiamo, no, Alberto. Per me non ci sono momenti, cioè non ci sono difficoltà, dire, ci sono solo occasioni, come diceva giustamente prima Alberto. Sì, un dialogo con una delle tue figlie, se non lo vivi come un fastidio o come un problema, può diventare un'occasione di crescita per entrambi, perché alla fine ogni domanda, soprattutto quando è autentica e priva di filtri come quelle dei bambini, ti costringe sempre a metterti in discussione e soprattutto ti costringe a porti qualunque problema in maniera originaria, in qualche modo, no? Perché i bambini, quando ti chiedono delle cose, è come se ti voltassero la testa in un'altra direzione. Cioè, è una cosa strana, e se tu cogli quella cosa lì, diventa una cosa utile, seconda per entrambi. Allora, voglio farvi sentire Saverio da Trani, che ha bisogno forse di un consiglio, e sono contenta che ci sia anche Alberto. Saverio, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Saverio, ci dica. Niente, io volevo raccontare la mia storia in pratica. Sì. Io da 24 anni, da 88 mi sono sposato, sono stato sempre fuori per lavoro come cameriere, sì. Germania, Olanda, Belgio, e in pratica non ho visto crescere i miei due figli. Una attualmente ne ha 28 con due nipoti, con due figli, e un altro ha 16 anni. E per questo ho chiamato, perché sentendo la vostra trasmissione mi sono reso conto di aver commesso l'errore più grande di non aver veduto crescere i miei due figli. Ma ha dato loro un grandissimo esempio, secondo me, per cui purtroppo da più di 10 anni non sono più con loro, perché la mamma è rimasta con i suoi genitori e non li ho visti crescere. La vita a volte ci porta lontano dal nostro cuore, da quello che vorremmo fare. Alberto, c'è un... Penso che Saverio racconti una storia che poi è comune a quella di tanti uomini. Chi fa il mio mestiere di psicoterapeuta incontra di frequente uomini magari tra i 45 e i 60 anni che si rendono conto che la vita li ha portati in un territorio lontano dalle relazioni affettive, spesso hanno perso proprio la dimensione dell'intimità con i figli. Però io mi sentirei di dire che non è mai troppo tardi, cioè Saverio può ricominciare per esempio scrivendo una lettera e proprio raccontando, come ha fatto stamattina al telefono, la sua consapevolezza di aver perso una cosa bella e magari chiedendo come si fa a provare a recuperarne a pezzettini parte di quella cosa che in realtà non è persa del tutto, perché come diceva anche Matteo siamo papà per sempre. Allora, abbiamo adesso la linea ai mercati. Io vorrei dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori subito dopo i mercati per sentire ancora un piccolo frammento dei post di Matteo Bussola, perché a casa Bussola si ride di gusto, e non perché si facciano cose particolarmente divertenti, ma forse perché si parla, perché sa che c'è sempre qualcuno che ascolta, e allora si apre il cuore, si raccontano i sogni, si fanno domande, si affrontano con ironia anche temi maledettamente seri. Andiamo ai mercati, che è una Pronta. Cosa serissima, e poi chiudiamo con un sorriso, con un post in un dialogo di Matteo e di una sua bambina. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e denari. Papà, dimmi Ginevra. Stamattina è meglio se tu non esci. Dici? Sì, è meglio se stai a casa, che sei malato, e mi accompagni a scuola la mamma. Ah, se la mamma è d'accordo, allora va bene. Così almeno la mamma si abitua. A cosa? Dico io. Che tanto dovrà portarmi sempre lei quando tu sarai morto. Ginevra, io veramente spero che quando sarò morto tu le scuole le avrai finite tutte e avrai pure la patente da un pezzo. Sì, ma se anche vuoi morire prima, non ti preoccupare. Sai, basta che me lo dici. Grazie. Allora in caso ti scrivo un biglietto. Papà, cosa? Io non so leggere. Abbiamo voluto chiudere con questo frammento di vita quotidiana che è riportato naturalmente nei post di Matteo Bussola, che adesso sono diventati un libro, Notti in bianco e baci a colazione, un libro che uscirà il 24 maggio. Abbiamo il piacere di avere Matteo in linea con noi insieme ad Alberto, sì, è uscito il 24 maggio, l'altro ieri. Abbiamo il piacere di avere Matteo Bussola in linea con noi, che sarà impegnato, immagino, nel tour delle presentazioni. Matteo, lì ti voglio. Sì, esattamente. Sì, infatti proprio questa sera alle ore 18 sarò a Milano, alla libreria Open, per la presentazione milanese di Notti in bianco, baci a colazione, presentato dallo scrittore Ivano Porpora. E domani invece sarò a Lecco, alla libreria Volante di Serena Casini, sempre alle 18 per la presentazione del libro. Ma allora noi che volevamo venire a Verona nella Casa del Bosco, anche questa volta, vabbè, dobbiamo metterci lì, facciamo un po' di ginnastica sul prato, vabbè. Alberto Pellai, un augurio, un bocca al lupo a Matteo Bussola, non ne ha bisogno, ma a tutti i papà che si cimentano in questa straordinaria avventura. Direi ai papà di seguire l'esempio di Matteo, è bellissimo riscrivere proprio pezzi della propria storia di padri con i propri figli su un diario personale e magari da grande regalarlo ai nostri figli. Grazie a Matteo Bussola, grazie ad Alberto Pellai, noi rimaniamo in famiglia. Arrivano già numerosi messaggi dei nostri ascoltatori che ci raccontano le loro fatiche di padre, famiglie anche molto numerose. Esatto, allora introduciamole con una bella colonna sonora. Ti presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Eh sì, perché insomma Giorgio Gaber chissà quali strane famiglie cantava, ma effettivamente oggi a vedere arrivare famiglie con 5, 6, 7 figli, per qualcuno che invece ha magari un nucleo familiare un po' più ridotto, può apparire una scelta... Certo, strabussa agli occhi. Non dico strana, però certamente ardita e coraggiosa ai tempi di oggi. Allora, perché parliamo anche di famiglie numerose oggi? Perché ve lo abbiamo anticipato pochi giorni fa con la nostra rassegna stampa. Sono arrivate le istruzioni operative per fare richiesta del bonus, appunto proprio per le famiglie numerose. Un bonus che è stato istituito dal governo con la legge di stabilità dello scorso anno. A distanza di un anno dalla sua introduzione, decolla quindi questa misura che porterà ai nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiori a 4, un sostegno di 500 euro. Secondo il Ministero del Lavoro sarebbero circa 72.000 le famiglie in Italia che potranno godere di questa misura. Una platea, ha spiegato il Ministro del Lavoro Poletti, che è stata quantificata usando come parametro di riferimento i nuclei con almeno 4 figli al di sotto dei 18 anni che già nel 2014 avevano beneficiato dell'assegno familiare concesso dal comune di appartenenza e liquidato dall'INPS previsto da una legge precedente, una legge del 98, la 448. Allora, se siete famiglie numerose e non conoscevate questa misura, avete bisogno di chiarimenti su come ottenerla, 800 24 00 24 è un'altra misura che fa il paio appunto con quelle di cui abbiamo già parlato in passato, misure già preesistenti, il bonus bebè, il voucher babysitter. Però oggi andiamo ai requisiti su questo bonus. Con noi stamattina Alessandro Soprarna, direttore dell'Osservatorio Politico dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, che saluto. Buongiorno Soprarna. Buongiorno. Buongiorno. E un amico di Cuore Denari, Dino Giornetti, responsabile del settore ISE dei CAF CISL. Buongiorno Giornetti e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a le voi. Le siamo mancate, che era da un po' che non la disturbavamo. Noi sempre in fase di dichiarazione dei redditi, torniamo a disturbare ospiti ricorrenti di Cuore Denari. Allora, Soprarna, intanto il bonus da 500... Soprarna. Sì, guardi, e stamattina metto qualche consonante in più nei cognomi. Vabbè, pazienza, ce l'ho scritto correttamente, me lo sto inventando io. No, mi stavo chiedendo... È corretta la stima di Poletti? Circa 70.000-72 famiglie usufruiranno di questo bonus. E quanto sono le famiglie numerose in Italia? Le famiglie numerose in Italia dai 4 figli in su sono, una stima dell'Istat, circa 123-124.000. Ah, e quindi diciamo sì, che Poletti ha detto 72.000 perché queste sono quelle che hanno questo ISEE basso, 8.500, ecco. Consideri che circa metà hanno fatto domanda di quell'assegno, di quindi vuol dire che sono in condizioni, diciamo, di povertà relativa, sicuro. Allora, non povertà assoluta. A proposito di telefoni che non ne vanno tanto bene, stamattina magari chiedo agli assistenti se possono ripristinare anche la telefonata con Soprarna, perché mi sembrava un po' cavernosa, no Nicoletta, che dici, sei d'accordo? Direi riproviamo. Sì. Allora Dino Giornetti, andiamo ai CAF CISL. Allora, probabilmente qualche papà e qualche mamma si sarà presentato in questi giorni ai vostri sportelli per chiedere le modalità appunto di ottenimento di questo bonus. In realtà la modalità per ottenerlo, per la sua erogazione, non è difficilissimo, perché se sono già famiglie che ricevono bonus precedenti, in realtà sembrerebbe tutto fatto. Non c'è bisogno di fare una domanda, di compilare una domanda particolarmente complessa. Sì, è vero, le confermo che la domanda è semplice nella presentazione, in quanto non esiste, non c'è l'obbligo da parte delle famiglie interessate di fare la domanda, perché il beneficio verrà erogato in base a tutte le famiglie che hanno già goduto dell'assegno per il nucleo familiare numeroso per l'anno 2015 attraverso il requisito economico che è sempre l'ISE e quindi la dichiarazione ISE che presenta tutto il nucleo familiare. Nel caso in cui queste famiglie, oltre ad avere 3 figli minori, avessero nel proprio nucleo nell'anno 2015 anche un quarto figlio minore, viene erogato in automatico questo assegno nel mese di luglio direttamente insieme all'assegno di chiamato assegno nucleo familiare numeroso da parte dell'INPS. Basterà quindi il fatto che si sia andati all'anagrafe a denunciare questa nascita, oppure bisognerà fare una dichiarazione aggiuntiva del fatto che è arrivato questo quarto bebè? Qui c'è una differenza. Se nell'ISE presentato nel 2015 collegato all'assegno del nucleo familiare numeroso era già presente il quarto figlio, quindi c'è già testimonianza dell'evento e l'INPS erogherà in automatico la prestazione pari a 500 euro. Se invece il quarto figlio fosse nato dopo aver presentato la domanda per l'assegno del nucleo familiare nel 2015 e quindi non tracciato nell'ISE, nella DS1, nella dichiarazione, questo quarto figlio, le famiglie interessate devono provvedere entro il 31 maggio, la scadenza è molto vicina, ad elaborare una nuova DSU, quindi un nuovo ISE, contenente anche il quarto figlio minore. Ecco. E anche in questo caso non dovranno fare altre ulteriori domande, perché l'INPS in automatico verificherà la nuova dichiarazione e aumenterà l'importo dell'assegno per il nucleo familiare numeroso anche di questi 500 euro per il quarto figlio. Allora, tra l'altro, stavamo proprio discutendo ieri mentre preparavamo la trasmissione, le istruzioni operative per fare richiesta del bonus per chi deve farla sono arrivate praticamente l'altro ieri. La domanda va fatta entro il 31 maggio, ma qua voglio dire, Soprana, l'abbiamo ripristinata la telefonata qua, con lei, eccoci qua. Qua. Ecco, qua bisogna anche informare le famiglie che devono fare la documentazione in più, che la scadenza praticamente è dietro l'angolo, ma si può fare una cosa del genere? Tue mani, le istruzioni un giorno e il giorno dopo praticamente c'è la scadenza per la presentazione della domanda. Soprana, che cosa state facendo per le famiglie che hanno bisogno di essere raggiunte da queste informazioni? Ma noi le abbiamo già avvertite a gennaio di fare, di preparare l'ISEE nuovo entro il 31 gennaio in modo da ripresentare la domanda per la 448 del 98. No? Quindi sono tutte, diciamo, state allertate. E per quanto riguarda la scadenza del 31 maggio, riguarda quelle famiglie che hanno avuto il quarto figlio nel 2015, per cui siamo un numero comprensibilmente ridotto. Certo. E queste le abbiamo comunque avvertite già quando è uscito questa circolare dell'INPS, abbiamo messo a fine sul aprile, sito, sì. Appunto, sì, a fine aprile abbiamo messo sul sito, attenzione, sta arrivando. Il dando bonus, per quindi scontato che tutte le famiglie numerose siano iscritte alla vostra associazione Soprana, no? No, qui ma noi non pretendiamo tanto. No, vabbè, però se siete anche veicolo è un sito che viene frequentato anche da coloro che non sono iscritti, quindi per certo che è un lavoro, anche quello, esatto. Mente. Fanno, anche perché poi è un'associazione di volontari, no, Soprana? Sì, sì, è tutto volontariato. Sì. Ma noi, insomma, il vostro presidente e presidentessa l'abbiamo anche ospitati qua, proprio forse una delle primissime puntate di Cuore e Denari, per cui li salutiamo volentieri. Allora, adesso abbiamo il traffico, dopodiché avremo anche Marcello da Modena e Mirko da Parma, e c'è già chi contesta perché famiglie numerose sono considerate solo quelle che hanno più di quattro figli. In realtà è un dibattito aperto questo, e molti comuni riconoscono anche un nucleo familiare definito numeroso, quello che ha solo tre figli, solo per tre. Così dire, solo tre. A tra poco. Cuore e denari. Sono tante famiglie numerose in Italia, anche se si tratta di un paese che fa sempre meno figli, in verità. Allora, peraltro, proprio nei giorni scorsi, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che ha condotto uno studio basato su una serie di dati Istat e Banca d'Italia su redditi, consumi e sul carico fiscale delle famiglie negli ultimi anni, ha scoperto che in realtà la pressione fiscale sarebbe scesa, ma non per le famiglie numerose. C'è una flessione generale, appunto, della pressione fiscale per la prima volta dopo quattro anni, ma il carico fiscale per quelle numerose sarebbe addirittura aumentato. Questo è uno studio che naturalmente poi è arricchito da tutti i dati che confermerebbero questo. Detto ciò, appunto, proprio probabilmente alla luce di questi dati, il governo ha pensato di erogare questo bonus di 500 euro. Lo ha fatto con legge di stabilità dello scorso anno, viene erogato quest'anno per le famiglie che hanno più di quattro figli o che ne hanno aggiunto un quarto quest'anno. Allora, Alessandro Soprana dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, l'ho sentito prima dell'inizio della nostra trasmissione perché non mi tornava un punto su questa misura. 500 euro che vengono erogati appunto in contanti contestualmente a questo assegno già erogato appunto dai comuni che danno questo bonus alle famiglie numerose secondo una legge del 98. Ma da una parte della circolare IMSS che disciplina il meccanismo del funzionamento del nuovo bonus, appunto quello per le famiglie con più di quattro figli, in realtà leggevo che si tratterebbe di un buono per l'acquisto di beni e servizi. È contanti o sono buoni, Soprana? Lo chiariamo una volta per tutte questo aspetto? Sì, sono contanti. Sono contanti. Quindi non arrivano dei ticket da spendere in qualche negozio? No, assolutamente, assolutamente. Ecco. Probabilmente la circolare è un rifugio di copia e incolla di qualche circolare precedente. Ecco, questo per darci anche l'idea di come vengono scritte qualche volta le circolari. Giornetti, lei ce lo conferma. Guarda che se la ride. Se la ride lui, esatto. No, ma perché... no, perché Soprana mi diceva, ma no, guarda che è contanti. Dico, ma io ho trovato che c'è scritto che sono dei buoni, perché già mi ero inventata lì tutta la fila ai negozi accreditati per ottenere, per pagare i pannolini, eccetera. Allora, confermo e dovrebbe essere erogato come quota aggiuntiva quando verrà pagato anche l'assegno al nucleo familiare nel mese di luglio. Senta, esatto. Giornetti, ma quanti comuni erogano questo bonus per le famiglie numerose? Tutti quanti in Italia? Tutti i comuni. perché è una legge nazionale, il comune è vincolato dalla normativa nazionale, quindi tutti i comuni hanno l'obbligo di erogare queste prestazioni già dal 1998. Sono due prestazioni legate alla natalità, certo. L'assegno al nucleo familiare numeroso e la nascita di un figlio, quindi che copre le famiglie che non hanno l'obbligo di contributi INPS e quindi non possono raggiungere la maternità INPS, tra virgolette. Quindi, i comuni. Certo, i comuni erogano anche per i neonati, continuano a erogare le prestazioni collegate sempre al requisito economico in base all'ISE. Allora, andiamo un po' a sentire. Allora, Marcello da Modena in realtà era candidato ad intervenire nella parte precedente della trasmissione, ma talmente simpatica la sua famiglia che noi abbiamo voluto accoglierla anche in questa seconda parte. Marcello, benvenuto. Buongiorno ragazze, grazie. Grazie. Allora, questo papà quanti figli ha? 7, di cui 6 femmine, e mi ero inserito prima, dopo la telefonata di quel padre che lamentava l'assenza dai figli per tanti anni, quindi volevo portare un contributo un po' più ilare. Il vero dramma di un padre con tante figlie è portarle ai corsi di nuoto. Le femmine, perché è un problema, Marcello? Perché hanno i capelli lunghi e non si asciugano mai. No. Voi immaginate di essere a cambiarvi in uno spogliatoio con un papà che entra con 4 figlie, perché io avevo 4 figlie piccole di diverse età, ma comunque tutte da corso di nuoto, e deve cambiare le figlie e rivestirle nel momento ecco, in cui escono. Esatto, per fortuna che sono piccole e non vogliono ancora truccarsi, Marcello. Insomma, lei è altro che papà che merita il bonus, lei merita veramente la Coppa del Mondo dei papà con pazienza. Senta, grazie Marcello per la sua Marcello, grazie per la sua testimonianza. Ritorniamo al nostro bonus. Mirko da Parma, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Mirko, complimenti per la trasmissione. Intanto cerchiamo, dobbiamo fare il domandone se lei ha diritto ad intervenire questa mattina. Quanti figli? Due gemelline di 2 anni e 3 mesi e 2 in arrivo, altri 2 gemelli il 21 di settembre dovrebbero nascere. Lei è un altro campione del mondo, anche sua moglie è una bella campionessa. E sappiamo già che è un maschio e una femmina, quindi sarò circondato da 4 donne, almeno avrò il maschietto come arriva, supporto darle morale. Quando arrivano i secondi 2, Mirko? Il 21 di settembre. Ottimo. Il 21 di settembre. Uh-huh. Volevo fare appunto questa domanda per quanto riguarda il bonus. Questa domanda, che è in scadenza il 31 di maggio, la devo effettuare anch'io in previsione di una nascita o dovrei presentarla successivamente? Grazie Mirko, ottimo. Giornetti, intanto il CAF che risposta dà al nostro amico Parmense. Sì, che cosa gli suggeriamo? È chiara, la richiesta della domanda si può fare 90 giorni dopo, se parliamo di questo, dei 500 euro. Però in questo caso, essendo il riferimento il 2015, la nascita avverrà nel 2016, la famiglia potrà richiedere altre prestazioni come l'assegno di maternità erogato dal comune, se la madre non ha contributi, quindi non è lavoratrice, oppure il bonus bebè, che è l'altra misura di cui abbiamo già parlato, che porta con un limite ISE molto più alto ad avere un contributo di 80 euro mensili o 160 se è sotto una determinata soglia pari a 7.000 euro per la nascita del figlio, ma non questo contributo dei 500 che invece fa riferimento alle nascite avvenute nell'anno 2015. Senta, eventualmente, allora leggo sempre dalla solita circolare INPS che però c'è un limite di 45 milioni di euro, no, per questo bonus per le famiglie numerose. Potrebbe essere secondo lei rifinanziato l'anno prossimo e quindi far rientrare Mirko eventualmente l'anno prossimo? Giornetti. Sì. Ipotizziamo. Si è parlato anche, chiaramente si ipotizza, di aumentare le misure, le prestazioni collegate alla maternità, quindi anche raddoppiare il bonus bebè, se ne è parlato, quindi sarebbe una misura importante. Di 500 euro anche con un requisito più leggero, perché a questo punto avrebbe solo la nascita, non il requisito del quarto figlio. Quindi immaginiamo che ci sarà una misura addirittura più importante, si auspica, per le nuove nascite. Per Mirko e tutti i Mirko della situazione. Alessandro Soprana, chiudiamo con lei. Mirko, certamente lo iscriviamo d'ufficio alla vostra associazione. Per forza. Quali benefici ci sono ad essere iscritti alla vostra organizzazione, oltre che a informare di tutto quello che succede per le famiglie numerose? Ce la fa a raccontarcelo in 30 secondi? Beh, oddio, abbiamo convenzioni per le auto, perché sono importanti, abbiamo convenzioni con la Fiat, con la Renault, con la Citroën e con la Ford. Poi abbiamo un sacco di piccole convenzioni locali che si possono trovare nel sito, e queste sono, diciamo, le opzioni, certo, per chi si iscrive. E poi però c'è il lato, diciamo, che io chiamo positivo, ma che per molti è un po' impegnativo, di lavorare per l'associazione, nel senso, certo, quindi darsi da fare presso i propri comuni, presso le proprie province, presso le proprie regioni, di vedere di far approvare leggi che possono agevolare, ecco, le famiglie e sostenere queste famiglie che sono naturalmente bisognose. Grazie ad Alessandro Soprano e Dino Giornetti. Nicoletta, abbiamo terminato, direi. Torniamo che possiamo lunedì andare a fare il nostro weekend sui campi col bootcamp. Sei pronta? Buon allenamento a tutti.